arrettatezza, vigia, legge, seggi elettorali, infami, animali, si comportano come schegge, la spina si incrina, porta la malora, la gola è una suora che è disonesta lì, ma siamo un albero malato, morto alla radice, un calice insanguinato da nere diatribe TV. Come fiere impongono gerarchie, si fondono con la legge, se grandi signorie, singoli circoli domano, masa desbandate, tutto tace e la pece oscura le strade, incapace sto governo come un perno sgranato, aperto una vorace, mutilato, insegnalato, tieniti fuori carabiniere, forestiere, non siamo che foriamo mentre tu stai a vedere, il verde sporco e l'orco l'ha sempre vinta, dipinta una Sicilia sotto questa mala cinta. Presa di distruttrice, carnefice, carnefice di uomini di cuore, non di onore. Attenzione, attenzione, sale il freddo, il freddo mi invade. Unito con la terra naturale come nobile che sfrutta la sua terra. È una piramide, una mantide che funge, funge da risorsa, ricorsa da chi vinge, finge il mafioso facendolo peroso, goloso di denaro caro ed oneroso, apparso come fonte trainante senza limiti. Ma se non ripaghi son più che brividi, e la cupola ordina ordigni maligni. Se ti infogni non esci, anzi agonizzi, l'omertà zittisce sceriffi e califfi, finisce l'omicidio tra i pianti dei figli. Già perché le famiglie soffrono la fame, per famigerati ingrati ci tengono sotto lame. Il pane scarseggia, l'acqua scarseggia, un bisu siti mai, un culo da vostra seggia. Presa di carnefice, carnefice di uomini di cuore, non di onore. Attenzione, attenzione, sale il freddo mi invade, io resto ad osservare. Vorrei un matrimonio col nostro patrimonio naturale, regale, senza manicomio, casino, ho tanto casini, fine o fassino, voltano lo sguardo di fronte al nostro destino, la nostra isola simbolo di bellezza, ma la veemenza e l'ignoranza vincola l'evoluzione, siamo in putrefazione, ma non ci muoviamo per una insurrezione, e siamo in preda al caso, ma tanto è il nostro caso, rimarrà un caso, l'hai ho mai curato, siamo nel mezzogiorno, ma un giorno non lo vedo, terra del sole, ma qui piove lavoro nero, spero accendo un cero per un rimedio, Sicilia mia famiglia colpita dallo sfregio di non potere sfruttare il suo potere, abbasso fiacco gli occhi impotenti a guardare. Presa di distruzione.